Focus Economia. Benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, in una giornata nella quale finalmente dovrebbero essere diffusi i risultati dei cosiddetti stress test, ossia i test di resistenza sulle banche in uno scenario di crisi. Vi dico, poi ne parleremo in apertura subito dopo le nostre notizie in breve, vi dico che appena abbottuto un'agenzia, Radio Core, il Sole 24 Ore, che indica indiscrezioni sui criteri, una nuova recessione sarebbe alla base dello scenario peggiore indicato dagli stress test, una flessione del PIL del 3%, ma non c'è tra le ipotesi appunto degli stress test il default di un paese di Eurolandia. Si è letto in queste ore che sarebbe proprio questo, il fatto che non ci sia l'ipotesi di un default di un paese di Eurolandia, ad aver spinto l'euro al ribasso sul dollaro a 1,28,28. Cercheremo anche di approfondire questo, di capire insomma un pochino questi criteri come sono, verranno diffusi a borse chiuse, ve ne daremo conto naturalmente nei giornali radio a partire dalle 18 e poi nelle 19 naturalmente domani mattina, e poi torneremo a parlarne lunedì. Questo sul fronte di come si stanno muovendo i mercati. Avremo modo di parlare anche di federalismo, sta parlando in questi minuti di nuovo il ministro dell'economia Giulio Tremonti su questi temi. Ci sono dei dati interessanti, li avete sentiti anche nel giornale radio, che sono stati diffusi dalle dai tecnici della Camera, insomma sono alcune elaborazioni interessanti. Toccheremo naturalmente ancora una volta il tema di Fiat e del possibile spostamento della piccola monovolume in Serbia da Mirafiori. C'è qualche piccola schiarita, almeno stando alle ultime dichiarazioni del sindaco di Torino Sergio Chiamparino, che ha sentito Sergio Marchionne. Le notizie in breve di questa giornata. Iniziando, perché in questo quadro ce ne siamo un pochino scordati, da queste borse molto nervose nella giornata di oggi, il FTSE MIB c'è dello 0,40%, il FTSE Share lo 0,36%, mentre sono positive le altre borse europee, fatta eccezione per Londra in calo dello 0,27%, abbastanza bene va l'America, più 0,21% sul Dow Jones, il Nasdaq cede lo 0,26%. Per quanto concerne il petrolio, invece, è aperto in calo a New York con un calo dello 0,6% a $78,62 al barile. A proposito di energia, crescono l'utile e i ricavi del semestre di Edison, che ha diffuso appunto oggi la sua trimestrale insieme alla semestrale, ha accusato una flessione del margine operativo lordo a causa dell'andamento del mercato del gas. Fatturato in crescita del 10,9%, risultato netto pari a 142 milioni, più 16,4%, in flessione invece il margine operativo lordo, meno 14,5%. Per quanto riguarda la crisi, in particolare quella degli stati sovrani, ci sono due segnali negativi per l'Ungheria. Moody's ha detto che ha messo sotto osservazione il rating dell'Ungheria per un possibile declassamento, mentre Standard & Poor's ha rivisto l'outlook da stabile a negativo. Per quanto riguarda l'Italia, invece, sulla crisi ci sono da registrare le parole del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, oggi intervenuto alla cerimonia del ventaglio, tradizionale saluto pre-estivo del Presidente della Repubblica ai giornalisti che seguono le vicende del Quirinale. Sentiamo Napolitano sulla crisi. Occorre davvero guardare avanti, misurarsi con le sfide del futuro e farlo con la massima apertura e serietà. Nessun catastrofismo per quel che riguarda l'Italia, ma consapevole realismo nel valutare le attuali tendenze nei loro aspetti positivi e nei loro limiti, le questioni di fondo e le incognite che restano. Si sta risalendo la china di una pesante caduta. Si sta manifestando una significativa ripresa della produzione industriale, in modo particolare delle esportazioni. si sta confermando la vitalità del nostro sistema imprenditoriale, una parte del quale soprattutto coglie i frutti di un processo di rafforzamento delle basi e dell'efficienza aziendali e di dinamica proiezione verso i mercati internazionali. E quindi la vede bene il Presidente della Repubblica, o almeno la vede con un certo grado di ottimismo, e però dice il problema numero uno, al di là del fatto che il sistema di ammortizzatori sociali in linea di massima ha funzionato, e questo viene riconosciuto anche a livello internazionale, il problema numero uno sono i giovani. Sul piano sociale hanno inciso positivamente le politiche di rafforzamento degli ammortizzatori e di sostegno dei redditi familiari. Detto questo, dobbiamo guardare al futuro, e ciò significa in sostanza guardare alla condizione dei giovani e alle troppe debolezze e strozzature del nostro sistema economico e civile che occorre superare per garantire ai giovani un futuro sostenibile e dinamico. Il punto critico in cui si incrociano le maggiori contraddizioni del nostro sviluppo storico e della fase attuale è quello del livello di inattività, nettamente più alto che nella media europea e in ulteriore crescita, la flessione nel numero degli occupati, il più alto tasso di disoccupazione, l'aumento degli inattivi che non cercano lavoro hanno colpito soprattutto i giovani tra i 18 e i 29 anni. Alla ripresa produttiva non corrisponde, e tale fenomeno non è solo italiano, una ripresa dell'occupazione. Da noi le questioni storiche dell'occupazione e del mezzogiorno si rispecchiano esaltate nella condizione giovanile. E anche se su questo fronte dobbiamo segnalare l'arrivo di un dato interessante da Unioncamere, che anticipa i risultati di uno studio previsionale del sistema informativo Excelsior, dice che nel 2010 un posto su due sarà per i giovani. Le imprese sono disponibili ad assumere nel 54,7% del totale dei posti di lavoro messi a disposizione giovani in uscita da scuole e università. Il punto però naturalmente è poi se troveranno quelli con la specializzazione che gli serve, che è un altro dei grandi temi italiani. Restiamo sul Presidente della Repubblica e chiudiamo questa parte sulla cerimonia del ventaglio, sempre con riferimenti economici dal Capo dello Stato, in particolare alla necessità della nomina di un Ministro dello Sviluppo Economico, quanto prima, e poi del Presidente della Consob. Sentiamo Napolitano. Del contesto di lungimirante confronto che auspico nell'interesse generale è condizione il corretto funzionamento delle istituzioni e dei rapporti tra le istituzioni. L'istituzione governo non può ormai sottrarsi a decisioni dovute, come quella della nomina di un titolare del Ministero dello Sviluppo Economico o del presidente di un importante organo di garanzia quale la Consob. Questo dunque il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Poi nel pomeriggio, durante la conferenza stampa con Dmitry Medvedev, il Presidente russo, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha detto che la nomina si farà in settimana prossima. Come avete sentito dal giornale radio, l'indiscrezione che circola era quella che circolò quando si dimise Scajola, ossia Paolo Romani, che è già viceministro tra l'altro. Di federalismo si diceva: il fisco locale pesa ogni anno per 2.364 euro a testa sui cittadini italiani, secondo uno studio dei tecnici della Camera in vista dell'esame del Parlamento dei decreti attuativi del federalismo fiscale. Poi approfondiremo, giusto per darvi un'idea. Nel 2008 si sono pagati in media 1.932 euro di tasse alle regioni, 344 ai comuni, 88 alle province. E ancora, il Molise primo per trasferimenti pro capite dallo Stato alle regioni. Al primo posto riceve dallo Stato 1.353 euro per cittadino, la Lombardia è penultima, 175 euro, 166 euro per il Piemonte. Insomma, il rapporto è di circa 1 a 10. I dati dell'Istat che riguardano le vendite al dettaglio di commercio, ne abbiamo parlato anche ieri. Il clima negativo sembra confermato appunto dall'Istat, calate dell'1,9% le vendite al dettaglio su base annua e dello 0,3% su base mensile. In calo sia il comparto alimentare del 2% che quello non alimentare altrettanto. E poi passiamo alle dichiarazioni, come si diceva, del Presidente del Consiglio, a tutto il tema della Fiat. Allora, dice Silvio Berlusconi, in una libera economia di un libero Stato, un gruppo industriale è libero di collocare dove è più conveniente la propria produzione. Mi auguro però che questo non accada a scapito dell'Italia e degli addetti a cui la Fiat offre lavoro. E poi ancora il sindaco di Torino Sergio Chiamparino, particolarmente interessato perché si parla dello stabilimento di Mirafiori, ha sentito l'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne, il quale gli ha detto che non intenderebbe pregiudicare quella T che nell'acronimo Fiat rimanda a Torino, è la percezione insieme a quella di un'ampia disponibilità. Tra l'altro, proprio in questi minuti arriva la conferma del governo serbo, la conferma del piano del lingotto, mentre invece parole un po' più dure arrivano dai sindacati serbi, dicono Fiat tenta di dividere i lavoratori dei due paesi e gli stessi sindacati serbi parlano di seri dubbi sul piano Marchionne. Ma replica in merito a tutta la buriana politica che si è scatenata in queste ore l'azienda tramite il responsabile delle relazioni istituzionali della Fiat, Ernesto Auci. Non vogliamo fare polemiche, ma non si deve più parlare di ricatti, di situazioni di violazione di norme costituzionali. Qui, spiega, esiste un problema industriale. La Fiat fa macchine, non si occupa di politica e purtroppo in Italia tutte le cose vengono interpretate sulla base di schieramenti preconcetti. Il ministro del welfare Maurizio Sacconi chiede a Marchionne di non agire unilateralmente, si dichiara ottimista e poi si è dichiarato pronto a convocare le parti, lo ha fatto ai nostri microfoni, lo sentiremo più avanti. Ancora trimestrali e poi andiamo a chiudere, passiamo appunto alla parte che riguarda le banche europee. Buone notizie per il settore auto, Volkswagen più 16% per le vendite nei primi sei mesi a 3,6 milioni di auto. Poi adesso vedremo di recuperare anche la trimestrale di Ford, che anche è stata piuttosto positiva. Nel frattempo restiamo sull'Europa. Vodafone chiude il primo trimestre che va da marzo a giugno con un fatturato in crescita del 4,8% a 11,3 miliardi di sterline. Per quanto riguarda l'Italia, chiude il trimestre con la crescita dei ricavi da banda larga mobile e multimedia del 22,1% e da rete fissa del 12,3%. E ancora STM, poi qua ci torneremo perché i conti hanno avuto un impatto importante sui mercati oggi, in particolare per quanto riguarda la joint venture con Ericsson, che non è andata evidentemente così bene secondo i mercati, e comunque i conti sono in crescita, ricavi più 27%, utile a 356 milioni di dollari. Infine McDonald's ha chiuso il secondo trimestre 2010 con profitti in crescita del 12%, l'utile netto è salito a 1,23 miliardi di dollari. 1,13 dollari per azione contro la stima di 1,12 avanzata dagli analisti, le vendite sono aumentate del 5,3% a 5,95 miliardi. Ecco Ford, prima di chiudere, più 13,04%, l'utile netto nel secondo trimestre a 2,6 miliardi di dollari. E veniamo al tema delle banche. Mancano circa una quarantina di minuti e consentitelo, veramente non ne potevamo più. Sono due settimane che i mercati, soprattutto in Italia e soprattutto sul FTSE MIB e in generale in Italia, dove il peso degli istituti finanziari sul listino è molto forte, come sapete, che insomma stiamo appesi ai cosiddetti stress test condotti dall'organismo europeo CEPS su 91 banche del vecchio continente. Servono a verificare la solidità degli istituti di credito in caso di situazioni difficili e appunto di stress. Sono coinvolte in Italia Intesa San Paolo, Unicredit, MPS, Banco Popolare e UBI Banca. Saluto dai nostri studi di Roma Orazio Carabini, editorialista del Sole 24 Ore. Orazio, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, prima di andare sui commenti, perché è un pochino quello che vorremmo sentire da te, perché si sono appuntate parecchie critiche su questi stress test, non solamente dall'Italia, ma insomma il Financial Times ha picchiato duro parecchio in questi ultimi giorni in vari commenti, sentiamo esattamente in cosa consistono. Basati sull'esempio di quelli condotti l'anno scorso negli Stati Uniti dalla Federal Reserve, i test sono realizzati attraverso le singole autorità nazionali, nel nostro paese la Banca d'Italia, che raccolgono i dati fra le banche in termini di dotazione patrimoniale, quantità e qualità dei finanziamenti e del portafoglio, compresa la quota di titoli di Stato, specie dei paesi considerati più a rischio. Sulla base di questi dati, quindi, il test ipotizza le conseguenze delle perdite sull'indice patrimoniale Tier 1, importante indicatore di solidità di una banca, in caso di uno scenario sfavorevole per l'economia che veda uno scostamento del PIL del 3% rispetto alle previsioni. La soglia minima fissata per il Tier 1 è quella del 6%, in caso contrario dovranno scattare rafforzamenti patrimoniali. Il secondo parametro è quello dell'esposizione verso i paesi più a rischio misurato attraverso la quota in portafoglio dei titoli di Stato. Lo stress test ipotizzerebbe, e per questo è stato ritenuto da alcuni troppo benevolo, una perdita del 16-17% per i bond della Grecia e del 3% per quelli della Spagna, non considerando l'ipotesi di un default di uno Stato sovrano. Eccoci qua, quindi Orazio Carabini, mi sembra che il primo tema siano esattamente i criteri con i quali sono stati fatti questi stress test, perché noi abbiamo detto che sono stati fatti sull'esempio americano, in realtà sembrano essere un pochino più morbidi anche le indiscrezioni che abbiamo letto poco fa, che sono state diffuse da Radio Cori, il Sole 24 Ore, parlano appunto di stress test che non prevedano l'ipotesi di un default di uno stato dell'area euro, insomma l'idea che siano stati fatti un pochino in realtà per autorassicurarsi. Tu come la vedi? Ma sono abbastanza d'accordo. Dico che i governi e le banche centrali si sono infilati in un curioso loop, in un circuito perverso, perché se tutto va bene, come probabilmente verrà fuori questa sera, oppure insomma i problemi sono pochi, il mercato interpreterà questi test come basati su ipotesi ottimistiche, quindi in realtà poco significativi. D'altra parte, se i governi e banche centrali avessero fatto delle ipotesi più pesanti, allora il mercato avrebbe interpretato queste ipotesi come destinate ad accadere con maggiore probabilità, e quindi si rischiava di avere un effetto peggiore di quello che si voleva evitare. Per cui adesso ci troviamo in una situazione così, abbastanza da un'operazione d'immagine, ne verrà fuori, che è stata concepita quando si dovevano tranquillizzare i mercati che erano agitati per delle crisi fiscali in alcuni stati, che si potevano riverberare sulla salute di alcune banche, e in realtà questo stress test alla fine non risolverà granché. Allora, Orazio, mi sembra di capire che la tua opinione è che a questo punto era meglio non farli. Sì, sono arrivati tardi e adesso poi vedremo se le ipotesi che sono state diffuse saranno confermate dai documenti ufficiali, ma a questo punto è difficile dubitarne. Se è così, probabilmente era meglio non farli, perché sarebbe stato meglio convincere i mercati che le banche centrali hanno, come hanno sostenuto fino a 2 mesi fa, prima di lanciarsi nell'operazione stress test, avevano una perfetta conoscenza del sistema bancario dei loro paesi e quindi avevano fatto i loro stress test. Orazio, nelle settimane scorse tu hai scritto su questo tema e un'altra critica si è appuntata sul ritardo di pubblicazione appunto di questi stress test. Insomma, ce lo stavi dicendo adesso, alla fine le banche centrali questi dati potrebbero averceli tranquillamente, insomma probabilmente ce l'hanno già in mano. Ma se ce lo avessero chiesto, probabilmente avremmo detto che è il pane di tutti i giorni delle banche centrali. E quindi questa probabilmente si tratta soltanto di un problema di rendere simmetrici i lavori delle varie banche centrali. Perché teniamo presente che questo organismo di coordinamento delle banche centrali lato vigilanza, non politica monetaria, quindi quello che riguarda la vigilanza bancaria non coincide in tutti i paesi con le banche centrali. Questo coordinamento europeo esiste relativamente da poco, quindi non ha la stessa presa che ha la Banca Centrale Europea sulle banche centrali versione politica monetaria. Quindi si trattava di armonizzare le ipotesi e le metodologie soprattutto, e come al solito questo richiede tempo. Questo è il vero problema di un'unione monetaria in cui la moneta è unica, ma i paesi continuano a essere 17 e le politiche altrettante. Un'ultima nota, Orazio, si potrebbe fare su questo. Insomma, si prevede questo scenario di crisi, si mettono, come dire, appunto sotto stress i bilanci delle banche, e però bisogna anche considerare che appunto non tutte le banche sono uguali, e così come l'area euro è disomogenea per tanti aspetti dal punto di vista economico, è disomogenea anche per come sono fatte le banche. Sì, questo è un esito che probabilmente sarà reso pubblico questa sera. Qualche paese sarà messo meno bene degli altri, in particolare la Spagna, ma poi per esempio sulla Germania continuano ad esserci molti dubbi e non so bene quanto verrà fuori questo aspetto dagli stress test che saranno resi pubblici più tardi. Vedremo. Intanto ringrazio Orazio Carabini del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Buonasera. Grazie a tutti. Ci chiede Davide al 349-238-6666 se si dovesse attuare per qualche banca la necessità di consolidamento patrimoniale e questo si farebbe con emissione di nuove azioni. È una buona domanda, questo in realtà non è ancora chiaro. Perché? Perché ci sono alcuni stati, alcuni governi che prevedono dei programmi di ricapitalizzazione delle banche, pensi nel nostro caso ai Tremonti Bond naturalmente, oppure appunto c'è una possibilità di ricapitalizzazione sul mercato, ossia banalmente di appunto richiedere una ricapitalizzazione agli azionisti, anche questo. Insomma, non è chiaro. Ieri, ad un'espressa domanda di un collega giornalista durante la conferenza stampa dedicata ad altro, il ministro Tremonti, insomma, se c'era un piano italiano, il ministro Tremonti ha detto che, insomma, per il momento preferisce non esprimersi. Vedremo come andranno questi stress test, ve lo diremo nei giornali radio. Livia Zancaner, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Di questo andamento nervoso non ci dire che sono responsabili gli stress test, invece ce lo devi dire, mi sa. Sì, in realtà oggi è stata una seduta all'insegna della volatilità e del nervosismo focalizzata interamente sull'attesa per la pubblicazione degli risultati degli stress test, appunto oggi alle 18. A influenzare in realtà anche gli segni europei è stato anche l'andamento di Wall Street, che dopo un'apertura positiva che quindi aveva trainato inizialmente le borse europee, ora trattano sotto la parità con il Nasdaq sotto la parità e il Dow Jones invece che segna più 0,24. Allora, il quadro quindi complessivamente in chiusura è negativo, l'euro quota a 1,2866 in lieve recupero rispetto a quanto non era fino a poco fa. Il titolo peggiore oggi però non è una banca ma ST Microelectronics, come mai? Sì, allora ST ha perso il 4,6% circa, allora... La società ha pubblicato i conti del secondo trimestre questa mattina prima dell'apertura dei mercati. I conti sono stati positivi, nel senso che il trimestre si è chiuso con un utile netto di 356 milioni di dollari rispetto a una perdita di 318 nello stesso periodo dello scorso anno. In realtà il mercato è rimasto deluso dai risultati della joint venture con Ericsson, che ha segnato una perdita operativa di 137 milioni di dollari. Inoltre anche il comparto tecnologico ha chiuso in calo e per gli analisti di Royal Bank of Scotland i conti annuali di ST risentiranno anche della revisione al ribasso delle stime 2010 di Nokia, che è il più importante cliente del gruppo. Oh, in tutto ciò è andata giù anche Telecom? Sì, allora Telecom quindi ha risentito negativamente dello scivolone di Ericsson, che a Stoccolma ha perso il 6,7%, hanno chiuso sotto la parità anche BT Group a Londra e France Telecom a Parigi, e la società quindi Ericsson ha mostrato un utile netto in deciso rialzo, infatti a più 126%, ma meno delle attese, 20 in flessione dell'8%, l'utile netto si è attestato a 1,88 miliardi di corone, mentre le attese erano per un utile a 2,73 miliardi. Oh, in questo quadro, ed è tutta una settimana più o meno che va così, fa bene il comparto del lusso, c'è una Luxottica che guadagna 1,5%, Bulgari un 1,17%. Sì, infatti l'andamento del comparto del lusso è stato positivo in tutta Europa, e a Milano, per quanto riguarda Luxottica, il titolo arriva da 3 sedute di rialzo, quindi con quella di oggi 4 in attesa della pubblicazione dei conti il 26 luglio. Inoltre oggi Deutsche Bank ha migliorato la valutazione sul titolo, alzando il prezzo obiettivo da 19,3 a 22 euro, mentre ha confermato il giudizio hold, e le azioni hanno chiuso a 20 e 18 euro. Vedo bene anche Prysmian, c'è un qualche motivo particolare, Livio, un più 1,75% e il titolo migliore sul FTSE MIB, tra l'altro. Sì, infatti Prysmian ha accelerato, diciamo, a partire da metà seduta, e in realtà il titolo ha beneficiato per il secondo giorno consecutivo delle dichiarazioni dell'amministratore delegato Valerio Battista, che appunto ha espresso previsioni rosee per i prossimi mesi, dicendo che il secondo trimestre è andato meglio del primo e vi sono i primi segnali di fiducia, anche se in realtà non si può essere ancora troppo ottimisti. Bene, oggi anche Autogrill. Sì, allora Autogrill oggi ha chiuso sopra la parità con un rialzo dello 0,89%. Allora, le azioni hanno beneficiato del giudizio di UBS, che ha alzato il prezzo obiettivo sulle azioni, confermando il giudizio neutral, ma alzando anche le stime di margine operativo lordo per il 2010 e di utile per azione per quest'anno e per il 2011 e il 2012. Secondo gli esperti, inoltre, il titolo ai valori attuali non riflette ancora il suo potenziale e dovrebbe beneficiare in futuro anche del miglioramento del tasso di cambio dell'euro rispetto a sterlina e dollaro. Dopo i cali pesantissimi dei giorni scorsi, dovuti naturalmente all'inchiesta sulla vicenda di Santa Giulia, vanno un pochino meglio le risanamento oggi, sì? Sì, infatti le azioni hanno chiuso a più 3,48% dopo aver perso il 15,4% circa dalla chiusura del 16 luglio, quindi a ieri. Ma è un rimbalzino, Livia, o c'è un motivo particolare? Allora, in realtà prima c'era un motivo particolare, poi sono arrivate in realtà delle notizie contrastanti, perché questa mattina, allora ieri c'è stato il CDA di risanamento, questa mattina la società ha comunicato di aver deciso di presentare al Tribunale di Milano una richiesta di riesame per il provvedimento di sequestro dell'area Monte City Santa Giulia. Poi però sono circolate ancora indiscrezioni sul mercato e il gruppo, su richiesta della Consob e di Borsa, ha dovuto far marcia indietro e ha comunicato di non avere intenzione di presentare alcuna istanza, quindi sostanzialmente ha annullato, se così si può dire, il comunicato di questa mattina. Infine Camfin. Sì, allora Canfin ha chiuso a più 6,22%, allora la società fa capo alla GP di Marco Tronchetti Provera ed azionista di Pirelli, pubblicherà i risultati semestrali il 30 luglio. In attesa quindi di questa data sono emerse alcune indiscrezioni sulle disponibilità finanziarie dell'azionista, che è la famiglia Malacalza, che ha il 12,1% di Canfin. Secondo quanto riportato infatti oggi al Sole 24 Ore, Ufima, che è la capogruppo delle imprese Malacalza, ha in cassa una liquidità intorno al miliardo di euro per un utile netto di 4,69 milioni, quindi questo avrebbe riportato l'interesse sul titolo. Bene, grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Cori, Il Sole 24 Ore e a Livia Zancaner. Lunedì avremo particolare interesse a sentirli per capire quale impatto avranno avuto questi benedetti, maledetti stress test sull'andamento dei mercati. Grazie Livia dunque. Arrivederci. Allora, un quadro finale di borsa, perché poi alla fine abbiamo tanto parlato di banche che sui singoli titoli non siamo andati. La Popolare di Milano in calo dell'1,93%, il Monte dei Paschi di 1,5%, giù dell'1,4%, tanto Campari quanto Banco Popolare, l'Ottomatica dell'1,33%, giù Bibanca dell'1,17%. Di poco più dell'1% scendono Fondiaria, Unipol, Intesa San Paolo, A2A in calo dello 0,94%, Telecom Italia dello 0,92%, dello 0,61% Enel, Unicredit di 0,5%, Ansaldo STS dello 0,42%, di poco più dello 0,3% Mediolanum, Italcementi e Mediobanca, di poco meno Snam, Rete Gas, Eni e Impregilo, in calo Effimmeccanica, Exor dello 0,20%, Generali dello 0,19%, Saipem dello 0,11%, Pirelli dello 0,10%, Fiat ancora in guadagno anche oggi dello 0,20%, anche se di poco, confortata anche da un andamento positivo, ve l'abbiamo forniti i dati di Volkswagen e di Ford, che sono andate bene, e da uno stock di settore, da un indice di settore che oggi è andato bene, quindi più 0,20%, bene Tenaris più 0,40%, altrettanto Terna più 0,43% per Azimut, Mediaset e Buzzi in guadagno di poco più di 0,5%, di poco più dello 0,6% Geox, Atlantia e Parmalat, su Autogrill dello 0,89%, CIR dell'1,12%, Bulgari dell'1,17%, poi di Luxottica si è detto 1,5%, 1,56% per essere esatti, Prismian su dell'1,75%, euro che quota in questo momento a 1,2846 contro dollaro, e borsa americana appena sopra la parità, più 0,11% per il Dow Jones, e mentre invece è negativo il Nasdaq, che c'è dello 0,40%. E dunque questo era il quadro di borsa, adesso ci occupiamo di Fiat. A partire da una notizia dell'ultima ora, era attesa la convocazione dei sindacati da parte del ministro del welfare, il quale ci aveva detto ieri, naturalmente aspetto che le parti mi chiedano di convocare appunto questo tavolo. Ebbene, lo stesso Sacconi, d'intesa con il presidente della regione Piemonte, comunica di aver convocato la Fiat Auto e le organizzazioni sindacali di categorie confederali per l'esame del piano Fabbrica Italia e delle sue ricadute produttive e occupazionali sui siti produttivi italiani. Il confronto tra parti e istituzioni sarà mercoledì 28 alle ore 10 presso la regione Piemonte a Torino. A Torino naturalmente, anche perché si sta parlando dell'ipotesi del Lingotto, ne stiamo parlando da qualche giorno, di spostare in Serbia da Mirafiori la produzione della nuova piccola monovolume. Su questo tema ci sono da registrare anche le parole del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ascoltiamolo. In una libera economia, in un libero Stato, ogni gruppo industriale è libero di collocare le proprie produzioni dove ritiene sia più conveniente. Io spero soltanto che questo non accada a scapito della produzione in Italia e degli addetti italiani a cui la Fiat offre attualmente lavoro. E sembra al sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, che ha sentito l'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, sembra di percepire una certa disponibilità, parla proprio di percezione Chiamparino, di non voler pregiudicare quella T che nell'acronimo Fiat rimanda a Torino. E forse qualche problema alla Fiat li potrebbero creare i sindacati, lo potrebbero creare i sindacati serbi, perché hanno mandato un comunicato molto duro nel quale dicono che l'azienda tenta di dividere i lavoratori dei due paesi e parlano di seri dubbi sul piano di Marchionne per quanto riguarda appunto questa decisione, perché dice il sindacato in un anno ha cambiato il piano 3 volte. E però, dall'altra parte, il governo serbo invece conferma l'impegno della Fiat a produrre nuovi modelli a partire dal 2012. Siamo fortemente impegnati nella collaborazione con Fiat, dice il segretario di Stato al Ministero dell'Economia. E naturalmente un condividiamo in pieno la scelta dell'azienda torinese. C'è anche qualche replica dell'azienda, affidata alle parole di Ernesto Auci, il responsabile relazioni istituzionali della Fiat. Non vogliamo fare polemiche, ma non si deve più parlare di ricatti, di situazione di violazione di norme costituzionali, dice Auci. Se non impostiamo le cose sulla polemica inutile, si può andare a discutere. E poi la Fiat fa solo macchine, non si occupa di politica. Purtroppo in Italia tutte le cose vengono interpretate sulla base di schieramenti preconcetti. Come si diceva, il ministro del welfare Maurizio Sacconi invita Marchionne a non agire unilateralmente, dice di essere ottimista, di confidare anche nella CGIL, si dice appunto pronto a convocare le parti e come vedete nel frattempo lo ha fatto. Interviene anche l'opposizione, Pierluigi Bersani, il governo non dovrebbe chiedere un tavolo sulla Fiat, lo deve convocare ed è esattamente nel frattempo quello che è successo. E poi a chiedere un tavolo è stato anche Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, e come abbiamo visto appunto il tavolo è stato convocato, quindi tutto rimandato a mercoledì. Adesso ci occupiamo di un argomento che ha già fatto scaturire qualche sms, ossia il federalismo. C'è uno studio dei tecnici della Camera in vista dell'esame del Parlamento dei decreti attuativi del federalismo locale. E dice, tra le altre cose, che il fisco locale pesa ogni anno per 2.364 euro a testa sui cittadini italiani, che il cittadino ha pagato nel 2008 in media 1.932 euro di tasse alle regioni, 344 ai comuni e 88 euro alle province. E però forse il dato che ci ha più colpito è quello che riguarda il livello di trasferimenti dallo Stato alle regioni, ossia quanto appunto lo Stato trasferisce alle regioni pro capite per ogni cittadino. Il Molise è primo e il fanalino di coda è il Piemonte, preceduto dalla Lombardia. Ne parliamo con il collega Eugenio Bruno del Sole 24 Ore. Eugenio, buonasera. Buonasera. Allora, sono dati che impressionano abbastanza, in parte erano già noti. Che cosa emerge in sostanza da questi dati e che indicazione può dare per insomma, l'approvazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale? Ricordiamo che ieri è stata approvata la bozza di quello sui fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. Dovrebbe arrivare forse in settimana prossima quello sui costi standard della sanità per le regioni. Vi ricordo che tra l'altro di questo tema si occuperà domani mattina 9 in punto. Eugenio. Allora, separerei un attimo le due questioni e proverei a partire dai dati. I dati non sono nuovissimi, nel senso che sono gli stessi presentati nella relazione del ministro Tremonti alle Camere del 30 giugno. Il valore aggiunto dei tecnici della Camera è stato quello di aver calcolato l'impatto pro capite, sia dei trasferimenti sia del peso del fisco. Diciamo, mi limiterei a queste due voci perché forse la soluzione possibile data al federalismo sta tutta qua. Come tu anticipavi, dai dati emerge che Il peso maggiore del fisco locale lo si trova in Lombardia con quasi 2.700 euro a testa, quindi oltre 300 euro in più della media nazionale, mentre in Molise si finisce per pagare quasi 1.000 euro in meno, cioè 1.726. Se si ribalta la prospettiva e si guarda i trasferimenti, cioè ciò che lo Stato ogni anno trasferisce alle regioni, la classifica, come dicevo, si ribalta, cioè la Lombardia è ultima perché riceve solo 175 euro per ogni cittadino, il Molise è primo per 1.353. Cioè, forse questi dati spiegano anche perché esatto. Il ministro Tremonti ha parlato di albero storto a proposito. Esatto, e spiega anche probabilmente una certa attenzione con il presidente della Lombardia, Roberto Formigoni, proprio su questi temi, in particolare proprio sui trasferimenti, insomma, sui tagli che sono arrivati con la manovra, no? Esatto. Sì, il fine del federalismo dovrebbe essere quello di lasciare sul territorio una quota di imposte sufficienti al finanziamento, diciamo, di tutti i compiti che i territori dovranno svolgere, prevedendo dei meccanismi compensativi per i territori in ritardo, perché è chiaro, Molise, che è primo nel ricevere i trasferimenti, nel momento in cui dovesse vivere solo di entrate proprie e in quella classifica invece ultimo, si troverebbe in grave difficoltà. Diciamo, questa sproporzione, la sproporzione di cui abbiamo parlato, deriva proprio dal fatto che per anni i trasferimenti dello Stato sono stati erogati in base, sotto forma di rimborsi a piè di lista, cioè poiché erano state decentrate le funzioni, ma non i tributi, in periferia si spendeva e poi lo Stato ripianava. Il fine dovrebbe essere ora quello di sanare questa distorsione in parte, cioè io ti faccio in modo da un lato che spendi secondo dei criteri standard e dall'altro ti rimborso ciò che con le imposte non riesci da solo a coprire. Ci fa notare un ascoltatore, dice: è normale che il Molise sia primo, sono poche persone. In realtà non è questo il ragionamento, perché i dati che abbiamo fornito sono pro capite e quindi per ogni cittadino, e quindi è di fatto una media. È vero anche che sul piatto, diciamo così, sul piatto dei trasferimenti, fabbisogni, eccetera, bisogna tenere presente che ci sono oggettivamente regioni più industrializzate e quindi più ricche e quindi che pagano tasse, dove i cittadini pagano tasse più elevate perché banalmente sono più ricche, e regioni dove avviene diversamente. Sì, esattamente così. Diciamo, qui forse possiamo venire alla seconda parte del discorso, che è quella sui decreti in arrivo. Prima parlavo di spesa storica. Con il decreto approvato ieri in via preliminare, perché ora dovrà arrivare in Parlamento, ottenere il parere e poi tornare a Palazzo Chigi per il via libera definitivo, immaginiamo in autunno, vengono fissati dei criteri in base ai quali comuni e province subito e città metropolitane quando nasceranno, in base ai quali potranno e dovranno spendere. Cioè, diciamo, la legge sul federalismo stabilisce più o meno chi fa che cosa, quindi quale funzione ogni livello di governo dovrà esercitare e con quali fonti potrà coprirle. Con i fabbisogni standard si stabilisce quindi che comuni e province dovranno erogare una quantità di servizi efficace ed efficiente e su quella vedersi poi compensati i trasferimenti. Quindi, diciamo, i fabbisogni standard sono il primo passo. Prossima settimana, o più probabilmente all'inizio di agosto, lo stesso meccanismo dovrebbe essere inserito per le regioni. Benissimo, grazie dunque anche ad Eugenio Bruno del Sole 24 Ore per essere stato con noi e averci aiutato a capire. Ringrazio Barbara Bianchi in redazione, Filippo Aureggi in regia. Ringrazio tutti voi per l'ascolto. Focus Economia torna lunedì alle 17:00.